Volete ridere o piangere? A quest'ora volete ridere o piangere? Ridere. È inevitabile. E allora, vabbè, non importa. Chi diavolo pagherebbe dei soldi per piangere? La tragedia nel nostro tempo e anche nel nostro paese non è ricercata. Io faccio un mestiere nel quale si può far ridere per piangere, ma è evidente che qualche anno fa, quando ho cominciato a farlo, ci faceva ridere e guadagnava di più di chi faceva piangere. Per anni abbiamo delegato ai codici di raccontarci il nostro tempo e ci raccontiamo di essere un paese così. Noi diciamo che siamo quelli della commedia italiana, ecco, non ci dispiace la commedia italiana, però la commedia italiana è altro dolce. Per me grande commedia italiana è la grande guerra di Monicelli, dove alla fine quei due cretini, Gassman e Sordi, due lavativi, due film per tutto il film, non sono certo un modello per nessuno. E quando alla fine quei due si fanno cucinare, noi ci ritroviamo tutti. Mentre le tragedie succedono non agli eroi, ma alle persone che nella vita non hanno mai pensato di dover fare l'eroe, non hanno il fisico di rompere l'eroe. Adesso vi faccio vedere perché. Quando io ho raccontato la storia del Maiolo, questa cosa mi è successa dopo molti anni che facevo un mestiere del teatro nel quale avevo imparato a raccontare la storia, fondate soprattutto sulla memoria, e sentivo parlare di poi vorrei tornarci su questo. Bayonne non è una storia privata, io prima avevo raccontato delle storie private, una specie di autobiografia, un po' inventata, parlando della mia generazione, parlando di come avevo visto il mondo cambiare intorno a me, no? Sono cresciuto nel boom del dopoguerra, sono uno dei bambini del baby boom, quando questo paese aveva le nascite in crescita e le classi erano piene di bambini e c'erano bambini dappertutto, bambini a perdere, nel senso che non erano una specie protetta, potevano giocare in strada. Se veniva a mancare qualche bambino, pazienza, perché tanto ce n'era sufficienza per assicurare il legame della nazione. Ma man mano che i bambini diventano merce preziosa, bisogna chiuderli sempre di più in maniera tale da essere sicuri che arrivino a diventare degli adulti. Questo ovviamente non è il centro di quello che volevo dire. Il centro era questo, la storia del Maiolo era una storia pubblica. E sia chiaro che il mio legame con questa storia era sottile, sottile, sottile. È vero che vengo dalla valle del Piave, ma non da lontanone, non ho perso nessuno in quella strada, non avevo nessun legame di parentela con quella strada privata, la chiamo strada, non disgrazia. La ragione del perché mi sono occupato di quella storia, quindi non era un legame diretto, una responsabilità diretta, è perché a un certo punto ho letto un libro che mi ha fatto vergognare. Il libro era di una giornalista di Belluno, si chiamava Tina Berlino, ed infatti questo libro che si intitola Sulla pelle viva. La sua rabbia per non essere riuscita con gli articoli, con gli avvertimenti, con le inchieste, non essere riuscita a impedire quello che poi era successo. Tina era una donna, scriveva su Unità, voi vi immaginate le valli bellunesi di diffusione che potesse avere un quotidiano come l'Unità, non pesava per me. E comunque io mi impadronisco della storia di Tina attraverso un meccanismo che se volete poi, anzi potrei parlare di quello, però prima vi racconto dopo. E questo per dire, dopo che ho raccontato la storia di Maio, a parte che sono diventato famoso e questo può succedere, ma sono diventato famoso come esperto, tant'è che immediatamente i quotidiani italiani mi chiedevano, appena succedeva una disgrazia, di fare l'articolo per parlare della disgrazia. E allora gli dicevo, beh, grazie, magari io ci vado, poi ci impiegherò qualche settimana, perché devo capire cosa è successo, non è che io vado, io non ci sarebbe domani. Allora ho detto, no, che io non scrivo mai. Perché non appartengo alla categoria delle persone che è in grado di esprimere un giudizio su una cosa strana a casa sua. E io invito chi lo fa, ma un po' di ansia. Ma insomma, la mia reputazione di esperto è andata avanti per conto suo, dopo che per un lungo periodo mi ero comunicato. Ne sapevo, ma non come libro. Meglio mestiere, non sono uno storico. Per cui figurate il mio stupore. Quando un anno dopo il racconto del Maiotto fatto alla televisione, ricevo una richiesta della New York University per andare a New York a partecipare come esperto del Bayon a un convegno mondiale di esperti di sfide italiane. E la lettera della New York University che io conservo è molto interessante e significativa, perché capisco che ci sono delle persone che seriamente per tutta la vita si sono occupate di una vicenda. Quindi c'è il signor Polesine, c'era il signor Strage di Capaci, c'era il signor 2 Agosto Colonna, c'era il signor Piazza Fontana e insieme c'era il signor Venezia il 4 novembre 1964. C'era il signor Acqua Alta di Firenze. La lettera dell'università della New York University diceva così: fra tutti i paesi, siccome l'inglese io me la traduco a loro, più o meno diceva così, fra tutti i paesi che aderiscono alla nuova Unione Europea, perché eravamo qualche anno fa, alla nuova Unione Europea, ognuno porta in gode catastrofi naturali, stragi di Stato, eventi luttuosi, ma nessuno dei paesi europei ha mai messo insieme una serie di sfide così considerevoli come voi. E cominciano a indicare terremoto di Messina, Belice, Friuli, Irpinia, alluvioni di Arno, Polesine, Piave, e ovunque ci sia un fiume e anche no, e poi avanti, e poi dicono l'elenco delle stragi, strage di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, strage di eccetera eccetera, e poi con il terrorismo internazionale, con le questioni, e letteralmente con uno stato così evanescente, la domanda è: italiani, come avete fatto a restare lì? Vi giuro che per la prima volta in vita mia, ho preso consapevolezza che non avevamo avuto la stessa dose degli altri. E mi sono fatto una domanda: come abbiamo fatto a restare lì? E ho pensato a famiglie dove i lutti non finiscono mai. Lo sapete, no? Che sembra che piove sul bagnato, per cui sei appena uscito da una cosa e te ne casca un'altra e un'altra e un'altra. E tutti lo sanno, che dicono poveretti quelli là. E altre famiglie dove per un lungo tempo apparentemente non si, cioè non è uguale per tutti. Allora, come abbiamo fatto a restare lì? E ho pensato che abbiamo fatto come certe famiglie, a cui succede una cosa dopo l'altra. E lì ci sono due modi di restare lì. O elabori il lutto, o rimuovi il lutto. E allora ho risposto agli americani: siamo vivi, ma l'abbiamo pagata con una rimozione della memoria che non ha uguale in nessun altro paese europeo. Per un po' di tempo ho campato su questo, finché un giorno mi invitano a un convegno con Cacciari. E allora io vado e parlo della memoria, come facevate voi, eccetera. Poi parlo a Cacciari e dice semplicemente che anche l'oblio ha i suoi limiti. E io vado in crisi, vado a studiare che cosa significa la parola oblio e io mi parlo un altro mondo, quello dei figli. Molti di voi mi diceva ciò. Rappresentano per questa storia italiana dei casi dove in una percentuale dell'80% non sono accertate le responsabilità finali, o sono parziali, o nemmeno quelle, o eccetera, eccetera. Quest'anno ci sarà la liturgia. Non so quale anniversario di Piazza Fontana, di nuovo torneremo a parlare del caso di Piazza Fontana, ciclicamente il calendario ci rimetterà davanti tutte le vicende irrisolte della nostra storia e per un giorno o per due giorni ne parleremo. Vengono istituite le giornate della memoria. Io sono cordialmente contrario alle giornate. Nel senso che capisco, ma mi sembra un alibi pesante per dimenticarsi per 164 giorni all'anno di una cosa e poi mettere un santo laico sul calendario. Donne, ma non sarebbe mica felice di avere la festa dell'8 marzo, con tutti che riportano la mimosa. Cioè, posso dire, se fosse il coronamento di un giuramento, di un qualche cosa, di vedere se la mimosa di quest'anno è diversa da quella dell'anno prima, se no potresti tirarcela in faccia, no? E così via. Questa retorica sul fatto che la storia è maestra di vita, cioè o impariamo dalla vita davvero da misurare la differenza, oppure no. Se il calendario, la liturgia ci ritrova sempre nella condizione apparentemente dell'anno prima, non funziona. Sapete, non funziona perché? Perché la memoria è un muscolo, e lo so che non è così, però non è un fratello, altrimenti in un paese come il nostro chi nasce dopo viene caricato dalla responsabilità dei padri di tutta una serie di vicende che non sono. Il nostro paese è diverso dalla Palestina. Però, 2 anni fa, 3 anni fa, pace esista, abbiamo coronato un sogno. 8 anni prima avevamo iniziato un lavoro a Gerusalemme con 80 giovani palestinesi che per la prima volta potevano frequentare una scuola di teatro. 40 di loro erano donne, molte di loro portavano il velo fino alla porta del teatro e poi si raccoglievano per fare le prove. Ma poi fuori se lo godevano durante le prove di teatro di una libertà che nelle famiglie non avevano mai avuto. Sapete cosa vuol dire questo? Che incontravo persone che avevano un'energia, una motivazione, una voglia di fare queste cose commoventi, travolgenti per noi. Dopo un lungo tempo abbiamo coronato un sogno, portato 5 di quei giovani in Italia per un progetto chiamato Amoretto per gli Italiani. Lo scopo era questo. Loro avevano lavorato su Amoretto perché l'avevano scelto loro. Certe cose del teatro per noi sono vecchie, ma per un giovane palestinese innamorato del teatro, l'Amoretto è uno strumento di libertà. E poi c'è un'altra cosa, l'Amoretto è la storia di un figlio che vendica un padre. Come mi piaceva questa storia allora. Perché? Perché la storia della Palestina è una storia di torti. Ogni generazione somma altri torti a quelli ricevuti dalla generazione dei padri. A un certo punto la situazione è incarognita. Come se ne viene fuori in Israele? Bisognerebbe sapere chi ha fatto il primo fallo. Dopodiché si può attribuire una responsabilità, ma siccome i falli sono generazioni di falli, non ne viene fuori. Abbiamo lavorato sul testo di Amoretto e ci siamo chiesti se Amoretto poteva ribellarsi al fantasma del padre. Abbiamo chiesto a questi giovani palestinesi di mettere in discussione l'eredità del padre, che è la memoria. È stata non solo una scelta da fare, una scelta di vita, di assemblee, di discussioni feroci, perché Amoretto sulla scena accettasse di fare questo cambiamento del testo. Di dire io non porterò avanti la bandiera della giustizia e della teoria, perché Amoretto per compiere giustizia nei confronti dell'assassino di suo padre fa morire tutti intorno a sé. Vi ricordate probabilmente la storia? Muore la sua fidanzata, muoiono i suoi migliori amici, dove passa Amoretto? Muoiono tutti, alla fine muore anche il tiranno che ha ucciso suo padre, ma muore anche sua madre. Muoiono tutti. Nella strage di Amoretto, fare giustizia comporta di creare nuove e profonde ingiustizie, come spesso accade nella storia della Palestina. Allora, grande discussione su questo. Ecco, lì mi era chiara, anni dopo, il senso della lezione di Cacciari sul rapporto tra memoria e impegno. Io nel mio paese la tradurrei così. I padri si prendono la responsabilità senza delegarla allo Stato. Prendiamocela come generazione per tutta la nostra complicità con le cose che non abbiamo risolto. E smettiamola di passare a chi viene dopo di noi tutto questo come un fardello. La responsabilità di questa contare non può passare sulle spalle di un ragazzo che è nato dopo. Così come la responsabilità delle ingiustizie subite non può deve essere scelta. Quindi non facevo gratis nelle scuole, nelle case, nelle mense. Facevo le novene, perché il Vajont il 9 ottobre, per un anno, ogni 9 del mese, mi trovavo in un posto e raccontavo la storia. Internet, non sapevo cosa fosse, non so come la gente venisse, ma spesso mi accorgevo che tornava gente che l'aveva già vista. Anch'io non ero già tanto bravo a tenere fuori dalla porta la storia. A un certo punto mi ha chiesto di parlare un parole. E poi l'ha detto. Allora, se io devo venire a raccontare la storia tua davanti a te, a casa tua, ma per immaginare come mi sento io? Altro che televisione, altro che un grande teatro, mi sento davvero una sprizza. Sono sotto esame, per così dire. Così mi sentivo, sotto esame. Beh, ma mano a mano ti raccontavo. Non mi sono reso conto che non passate da nessuno. Ogni 9 di ottobre i ragazzi delle scuole di Longarone se ne andavano non in classe ma in qualche posto a ricordare il loro senza che nessuno gliel'avesse raccontato. Il ricordo era generico, fondato su cose approssimative. Ci sono i libri, c'erano i libri, esistono, ma chi si legge un giovane che legge su un libro di non so quante centinaia di pagine per capirci qualche cosa, forse sì, ma non è obbligato a farlo, o se lo obblighi a farlo per la mano del piede. E le persone che l'avevano vissuto, ecco, le persone che l'avevano vissuto non erano capaci di trasmetterlo a chi l'aveva vissuto. Loro ne potevano parlare con pochi gesti perché non c'era bisogno di spiegarsi. È come dopo la guerra, perché i genitori a noi, generazione cresciuta dopo, ci dicono a voi vi servirebbe di correre la guerra, mica perché ci augurano che ci bombardino, ma perché gli sembra che noi non capiamo certe cose fondamentali. Allo stesso modo, allora loro certe cose fondamentali non riuscivano a passare da una vita. La memoria non funziona sempre. Se viene trasmessa male, diventa un obbligo. Rispetto ad altre cose molto più sexy che ci sono in giro, ha poche chance di arrivare in fondo. Dunque, mi sono reso conto che il lavoro che stavo facendo sul Vajont era nuovo anche per loro, perché era un po' un lavoro di cucire, cioè cucire quello che veniva dai libri con un meccanismo che era quello di provare a immaginare, di vedere le cose, di farle vedere a chi ti ascolta, eccetera. Ovviamente per fare questo si fanno delle semplificazioni. Ti fai un'idea e raccogli l'idea, ti c'è attenzione. Invece, se stai provando a ricostruire un fatto e devi, come questo, devi usare un metodo scientifico, allora la memoria, secondo me, le scienze hanno una legge, una sola legge. C'è la regola. La regola funziona finché non si trova l'eccezione. Nelle scoperte della fisica in generale funziona così. C'è una legge, ma nel momento in cui si trova un'eccezione, la legge deve essere cancellata. Bisogna riscrivere la legge. La scienza prosegue in questo modo. Allo stesso modo, io raccontavo io. Ma ogni volta che lo raccontavo, incontravo o un ingegnere, o un avvocato, o un testimone, o qualcuno, sia di una parte che dell'altra, che mi dava la sua versione diversa da me. E lì potevo decidere se continuare a restare attenzionato a quella che avevo già imparato a raccontare io, che ormai mi va bene, o mettere in discussione tutto perché questo qui mi aveva cambiato nella sua luce delle orecchie. Quindi il lavoro è stato smontato. E certe volte che mi pareva che era già diventato bello, mi stavo pensando, mi toccava togliere tutta una parte e rifarla per onestà, ma non per onestà, perché mi conviene, perché è il metodo. La memoria non può essere una crosta, perché sotto le croste c'è il pus. Insieme agli altri. Vi faccio un altro esempio. Quando raccontai il sergente della neve di Mario Rigoni Stern, utilizzai come base il suo libro, ma andai a parlare con Mario e scoprii che l'uomo che aveva scritto il sergente della neve aveva di quei giorni una memoria particolare. Vi voglio dire questo. Io lo incontrai nel corso di un film, di una lavorazione, di un documentario su di lui. Eravamo sull'altipiano pesante, c'era molta neve, il film era diretto da Carlo Mazzacurati, era un'intervista di lui. E durante il primo giorno camminavo sotto questa neve e lui era già un po' anziano, lui era un po' preoccupato di fargli fare troppa fatica. Il giorno dopo, quando ci rivedevo la mattina, dopo una lunghissima giornata di sette, erano state 8 ore di riprese faticose, il giorno dopo mi dice: sai, non ho dormito stanotte. Dico: ah, santo Dio, abbiamo combinato la frittata, abbiamo tirato in collo al vecchio, lo abbiamo sfruttato troppo. Questo non ha dormito stanotte. Allora mi scuso e gli dico: perché è stato? No, dice, per quello di cui abbiamo parlato non riuscivo a dormire. E allora mi fa: ho passato in rassegna tutti i febbrai della mia vita. Io mi sono detto: questo qua è un mostro. E poi per fortuna aggiunge tra il 1943 e il 1945. Dico: vabbè, allora è umano. Ma il vecchio aveva una capacità sintetica. Il libro Il sergente della neve è scritto su un diario fatto l'anno dopo in campo di concentramento. Durante i lavori forzati, invece di descrivere la vita del campo di concentramento, lui descrive il mese della ritirata russa dalla Don fino a Nicoletta e all'uscita dalla Sacca, grande tragedia italiana. Però io ho visto il quaderno, il suo quaderno dei punti era un quaderno dei punti molto sintetico con date, ore, nomi e cose. Su quello lui un anno dopo ricostruisce la memoria fresca, poi il libro viene pubblicato solo molto dopo. perché Primo Levi alla fine insiste perché Einaudi pubblichi il libro di questo analfabeta e nasce lo scrittore Mario Metamistero. Ho ricevuto moltissimi altri libri. Quando mi sono occupato del sedere della neve, decine e decine di persone mi hanno mandato i libri scritti dai loro cari sulla ritirata della Russia. Qual era la differenza? Che erano scritti a casa anni dopo di memoria. E lì non ti fidi. La memoria è come un documento. Un conto è quello che succede quando le cose accadono, si fissa, accada. Un conto è dopo. Dopo la memoria diventa come tutta la storia che raccontando. È giusto che sia così. Ma il valore della testimonianza a freddo non è lo stesso della testimonianza carica. Tu stesso non ti puoi fidare della cosa, perché tu non sei più lo stesso. Quindi va bene, chiunque può essere testimone, ma non è detto che chi è vittima o carnefice sia il miglior testimone della cosa. Dipende da come e quando ha sviluppato la testimonianza. Questo nella mia esperienza. E d'altra parte è anche possibile che qualcun altro diventi testimone. Testimonianza è provare a immaginare con i panni e vedere se te la cavi, cioè magari non ci riesco, magari va bene per quelli che non c'erano, ma non va bene per quelli che c'erano. Ma quando io sono andato a Lugarone e poi a fare il racconto, mi sono misurato con loro, lì ho capito due cose fondamentali. Uno, c'è talmente tanto oblio in questo paese che chiunque si azzardi a fare testimonianza diventa un profeta. Perché non c'è nessuno che va a verificare sui libri se quello che dici è vero o no. Cioè, in un mondo di fake news, ormai chiunque può inventarsi di testimonianza. Questo è pericoloso. Perché è demagogia. Su questo oggi si fonda il potere di chi sa fare bene il mio mestiere, ma poi lo fa facendosi leggere dagli elettori. Chiamare fuori. Tu oggi ci stai chiamando fuori da quelle che certezze quando diciamo che la memoria deve farsi racconto in storia quotidiana. E sì, perché se poi quando si va nelle scuole ci accontentiamo di raccontare, non dico di familiari, ma molti di noi che fanno parte di questa associazione, la cosa che abbiamo scaricato all'ultimo da internet, perché oggi i mezzi ci consentono questo, e non andiamo in profondità, prendiamo un cattivo servizio. Io mi sono appuntato tante cose che tu hai detto, e brevemente, e riassumo perché voglio provare ad andare avanti, se tu sei d'accordo. Ci hai detto che la memoria non può essere un obbligo, ma deve essere una scelta. E io credo che dobbiamo essere grati a tutti voi di aver insegnato a tanti di noi che la memoria non è un obbligo, è una scelta, perché voi siete qua perché appunto avete perso i vostri cari, ma tanti di voi sono qua perché hanno imparato da voi cosa vuol dire aver perso i vostri cari. E lo facciamo ogni giorno andando nelle scuole, parlando nelle università, con i colleghi, che ti dicono ogni 21 marzo ci dai una storia nuova da raccontare. E purtroppo le storie nuove da raccontare non mancano, perché quell'elenco che l'ho ricordato anche ieri è un elenco che si allunga ogni anno in avanti, e spesso con le tesi si allunga anche indietro, perché vengono recuperate nella dimensione del contrasto alle mafie, alla corruzione, alla violenza, vicende che in primo momento erano state pubblicate in un'altra maniera. Penso alla storia di Appetitore, ucciso in un supermercato da dei ladri, poi a distanza di anni si scopre che l'hanno ucciso, hanno mandato dei killer ad ucciderlo perché aveva disonorato la famiglia, non l'hanno simulato. E poi una provocazione positiva che ci hai fatto, rispetto alle giornate della memoria. Questa è un'associazione che si è battuta 20 anni perché il 21 marzo venisse riconosciuto dalla legge dello Stato giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie, con l'idea non di fare l'ennesima data da mettere sul calendario, ma di trovare un giorno, il giorno, il primo giorno di primavera, che mettesse insieme tutti questi nomi, quelli noti e quelli meno noti, quelli che qui venivano ricordati anche questa mattina, che non sono nel calendario civile e storico del nostro paese. E allora quale memoria passiamo ai giovani? È una scelta, è un obbligo, è l'elaborazione del tutto, la rimozione del tutto, poi diventa la rimozione della memoria. Poi giustamente non si può caricare eccessivamente di fratelli di crisi delle giovani generazioni, ma quando andiamo nelle scuole abbiamo questa volontà di raccontare, di passare loro delle storie che non devono sentire come fratello, perché le storie di queste persone che hanno perso la vita nella battaglia contro le mafie, che sono state uccise perché per tanti anni abbiamo detto sbagliando, che erano al posto sbagliato, non avevo sbagliato, erano storie di persone che non erano queste, erano storie di persone felici della loro vita, di uomini e di donne che volevano vivere, che a un certo punto della loro storia sono stato il fronte a un video, a volte scegliendo da una strada, a volte subendo, perché quando subiamo finisce un attentato non è che fare la vittima dell'attentato. E allora, se è vero che la memoria non è una crosta con la quale si nasconde soltanto un bus, ma è qualcosa che accende le ragioni del nostro stare insieme, va costruita insieme. Costruite insieme quotidianamente, evitando che la parola diventi una scusa per dirci ok, adesso tocca a voi. Io non l'ho mai impresa così, ho imparato da voi. Queste persone sono diventate amici, figli, fratelli, compagni di strada. Ho imparato da loro cosa vuol dire il dolore che non ha la possibilità di trovare consolazione. E allora se dobbiamo fare in modo che questa memoria cambi, che sia elemento di cambiamento positivo, dobbiamo esprimere la parola. Questa mattina ci hai detto molte cose importanti, ci hai provocato il termine di percezione positiva, ci hai chiamato fuori, e credo che la tua presenza di oggi serva proprio per dirci che c'è un valore. combattere solo la grande corruzione, ma combattere anche lo Stato. Non ci dobbiamo dimenticare che spesso invece lo Stato ha perso i suoi migliori in questa battaglia. Quindi è come camminare su un filo di un rasoio. E se non abbiamo le parole per farlo, però dobbiamo rischiare di essere davanti. Ci piacerebbe che tu continuassi questa riflessione. la vostra vita privata, questo cambia la nostra vita sociale. Ognuno di noi è abituato ad arrivare dove deve senza chiedere. Una volta, siamo a Venezia, siete arrivati qui con le vostre gambe, avete trovato subito il posto o avete guardato su Google Maps? Avevate la guida, ma prima che esistesse la guida dentro il telefono, a Venezia succedeva questo. Era molto semplice. I maschi guardavano la cartina e andavano. Le femmine chiedevano. Ora già i maschi di suo chiedono poco e si perdono di più. Accusano le femmine di non avere il senso dell'orientamento, ma loro si perdono di più perché non chiedono. Queste caratteristiche che un po', vabbè, cui possiamo prenderci in giro, perché siamo i miei complementari anche per queste cazzatelle, però quando tutto questo in qualche maniera quando anche la possibilità di chiedere informazioni a qualcuno non serve più perché è caro nel mio telefono, questa è una semplificazione, tra un po' non serviranno più i capi del sindacato, non servirà più nessuna struttura intermedia, non servirà la pubblica amministrazione se sarà come in Finlandia o in Lettonia dove la pubblica amministrazione funziona dentro tutto, dentro un algoritmo. Allora, ridurremo lo Stato a questo, cominceremo a pensare che in fondo una macchina è meglio di un politico, ma io credo che Salvini comunque sia meglio di un algoritmo. Vi è chiaro che cosa penso di algoritmi o no? cioè l'umano che sbaglia mi è più comprensibile della macchina infallibile come soluzione, ma come la diagnostica mi insegna. Una volta i nostri medici ci chiedevano, dica 33, quanti di voi hanno ancora un medico che vi fa dire 33? O quanto tempo è che non dite più 33? O che qualcuno non vi mette lo stetoscopio sulla schiena? Appena avete qualcosa vi manda a fare un esame. Io posso sentirmi bene, ma se la macchina mi dice che sto male, io credo subito alla macchina. Questo vale per la medicina, per il cavallo di Troia. Ma è evidente che non è l'unico settore nel quale noi tendiamo ad affidare a delle risposte oggettive più fiducia di quella che diamo alle risposte degli uomini. Diventiamo implacabili confronti degli uomini che sbagliano. Io credo che una delle responsabilità nel trovarci per pagare senza medici non sia soltanto per le università, ma del fatto che abbiamo un medico del proprio soccorso cambia settore perché ha a che fare con familiari che possono aggredirlo fisicamente, così come oggi chi fa l'insegnante si trova su una frontiera nei confronti di un mondo arruffato, di genitori scostanti che la sanno più lunga, perché trovano su Google tutta l'autorevolezza che gli viene dagli studi lasciati indietro e dimenticati, per cui sono più sapienti dei sapienti, cioè più sapienti dei sapienti. Ora, in un mondo così, dove la competizione va in una direzione, quello di cui stiamo parlando, la memoria, il tessuto sociale. Innanzitutto c'è per voi. Perché, scusate, ma voi vivete meglio della maggior parte delle persone che non hanno subito quello che avete subito voi. 10 volte di più di quello che conoscevamo del meglio di noi. E ognuno di voi, per reagire a quello che ha subito, ha tirato fuori di più di quello che aveva avuto o dato in tutta la sua vita prima. Questo rende la rete tra di voi, la rete di persone che hanno combattuto una guerra e che in questo paese non hanno avuto la possibilità, purtroppo, di addormentarsi come altri hanno fatto, di subire. A voi no, perché a voi la madre non si può più dormire. Questo vi renderebbe soli e diversi se foste soli, ma avete una rete. E questa cosa, innanzitutto, vi permette di guardare negli occhi altre persone a cui non dovete spiegare niente. Questo ha trasformato le vostre vite e non avreste mai voluto che fosse successo, mai successo. Non siete più quelli che eravate prima. Però, in proposito, sapete che nelle fatiche che fate adesso per venire qui, per partecipare a tutto questo, non occorre che nessuno vi spieghi perché lo fate. Perché avete imparato qualche cosa che adesso continuate a fare, che vi accompagnerà. Non siete meglio degli altri, ma state vivendo più attenti. Senza la rete, il rischio che ognuno di voi si sarebbe chiuso su quella cosa, ascoltare quella degli altri. Magari in certi momenti vi fa sentire e costringe addirittura a pensare che a voi è andata meglio che a quell'altro. Questi piccoli calcoli che facciamo nelle cose sono umani, ma che tutti insieme nella rete fanno sì che si può anche cazzeggiare quando ci si trova con altre persone in certi momenti, e va bene anche quello. Però è chiaro che porsi dei problemi, misurarsi con i propri limiti, ma avere un po' di aiuto vicino, cambiare veramente le cose. Quindi io dico che la gloria qui non è un problema, è un esercizio. Il problema è innanzitutto farlo per voi, senza pensare di dover evangelizzare gli altri. Fatelo perché vi tiene vivi, vi fa star meglio, vi tiene la schiena su, vi fa sentire meno lontano che avete perduto. Fatelo per l'onore di questo paese. Se escono da una rete che nell'insieme trova il modo di relazionarsi all'esterno, non come singole cose, ma come una parte di eredità. E non è zavorra, è qualcosa che può essere testimoniato in vari modi. Vi faccio due esempi. Qualche anno fa Massimiliano Gioni invitò alla Biennale di Venezia. conferenza. Ci pensai, riflettei, poi decisi di farlo e costruii un fienile. E sopra quel fienile misi il perdone dei fratelli, quello con il mappa che papà Cervi aveva inchiodato sul tappo del radiatore del trattore dei cervi, perché dovevano ricordare, se non lo sapete, qual era la storia. Il papà disse ai figli: ricordatevi che quando avete finito di arare tutto il vostro campo di terra, che è enorme, che arriva al tramonto, perché non avrete finito di lavorare, guardate il mappamondo e ricordatevi che tutta la nostra terra sul mappamondo è un puntino così piccolo che non si vede neanche. Sarà la lezione del vecchio Cervi ai figli. Beh, fui stupito quando Massimiliano mi accompagnò a visitare il padiglione italiano dell'arte contemporanea, perché dell'arte contemporanea mi sembra tutto un gioco, una cosa molto così da stupire, leggero, e poi mi resi conto, con la guida sua, della differenza fondante tra gli italiani e il resto d'Europa. Poi ci sono altri paesi come non lo so. Tutti gli artisti italiani fondavano le loro opere, per quanto difficili da capire, su testimonianze. C'era un'opera che conteneva una quantità smisurata di metri cubi del terreno della frana di Val di Stampa. C'era un'opera fatta di mattoni che venivano tutti da una fornace che usava del materiale che derivava da un altro disastro, non mi ricordo esattamente quale. E ognuno di questi mattoni era codificato con un numero progressivo e rappresentava le notizie che ci sono oggi verso Prato. Ci sono alcuni migliaia di mattoni, nel senso di pezzi di ferro che volano, ex satelliti, eccetera, eccetera, e sono tutti codificati con un numero e messi sulle mappe in maniera che su quelle orbite non ci può guardare nessuno perché rischiano di scontarci. Quindi una monnezza, pure là sopra, siamo riusciti a lasciare un bel ricordo di noi, delle vermine. Sono degli esempi vari. Nell'arte contemporanea, che sembra una cosa più lontana dei contenuti, l'ansia di testimoniare degli artisti italiani è diversa da quelli europei. Io vi testimonio che nel teatro, io le reazioni civili non le faccio da molto tempo. Mi occupo anche di altre storie, di un altro modo di parlare, eccetera. Perché non volevo monopolizzare uno spazio? Se no, è terribile. Gli viene data la delega di fare il testimonial delle catastrofi italiane e si è finito. Non si può delegare questo. Però credetemi, è commovente vedere la quantità di giovani che decidono di testimoniare Marsinelli o un'altra storia italiana. Anche perché? Per i cambi di territorio, per i cambi di generazione storica, o perché l'hanno scoperta per caso, si sono indignati come io mi indignai per il libro della Madrid. La trasmissione della memoria non è genetica, non va fatta ai figli, non è lineare, cioè come l'evoluzione, è culturale, cioè arriva per dei corsi laterali da qualcuno, da qualcosa che tu scopri nella tua vita. E se io scopro una cosa nella mia vita, per me quella cosa è più preziosa, che non se mi viene trasmessa da mia madre o da mio nonno che mi dice devi fare questo. Può anche essere che faccio quello che mi dice mio nonno, mia mamma, mio nonno, ma è chiaro che arrivo a un'età in cui tutto quello che mi hanno detto mia mamma, mio nonno, non va più bene. E se non c'è quell'età vuol dire che non sto crescendo, no? E quindi è anche giusto che a un certo punto uno crescendo si libera del fratello. Ma è possibile che il fratello vada sulle spalle di qualcun altro, quindi sono un po' di fiducia. Non è detto che quel che avete pensato vada a finire bene. Quello che state cose sono fatte per voi. Ma state tranquilli che i destinatari ultimi, strani e imprevedibili, ce ne sono molti, e l'esistenza di una rete fisica si fa notare. E magari saranno loro quelli che vanno a cercare. La signora prima che mi ha preceduto parlava di coraggio. Fatevi una cura di fiducia e coraggio. Continuando a fare quello che state facendo, continuate a sbagliare, va bene stesso. Paese non mi è uscita, troppo lento, passato, troppo rigido. no? Che la vicenda del Cancrenita. Ma perché c'è voluto Simone Cristicchi per tirar fuori la storia delle foibe nel nostro paese? E è stato attaccato perché la storia delle foibe è stata molto pubblicizzata da anni dai nostalgici, perché la maggior parte non si riusciva a sentire.